Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli, benvenuti all'appuntamento con l'Europa. Oggi, anche oggi potremmo dire, parliamo di crisi migratoria. Ci sono vari spunti. Il primo è un comunicato che arriva dalla Commissione. La Commissione UE dovrebbe prendere in considerazione l'impatto economico della crisi migratoria quando giudicherà i bilanci dei paesi più colpiti, che non hanno economie abbastanza robuste da assorbire i costi. Lo ha detto il presidente dell'Eurogruppo, Jeroen Dijsselbloem, parlando con la stampa estera. L'AIA per alcuni ha spiegato c'è il rischio di deraglio del bilancio che finirebbe fuori dai binari concordati. In questi casi, ha detto la Commissione, può prendere in considerazione le circostanze straordinarie, ha detto, senza indicare in particolare il paese o i paesi, ma naturalmente ha fatto pensare parecchio ai paesi del nord del Mediterraneo, quindi noi e la Grecia. Ancora, i presidenti della Commissione europea, dunque Claude Juncker, e del Consiglio UE Donald Tusk, hanno inviato ai 28 leader dell'Unione una lettera per sollecitare il rispetto di tutti gli impegni finanziari e materiali sul fronte della crisi dell'immigrazione, impegni presi nel vertice del 23 settembre e in quello del 19 ottobre. Lo ha detto questa mattina Mina Andreeva, la portavoce dunque della Commissione, sottolineando che per Juncker il rispetto degli impegni è un test della determinazione europea ed è un test che non possiamo permetterci di fallire. Infine, sullo stesso tema è intervenuto anche Angela Merkel. Se pensiamo in piccolo, ha detto la cancelliera tedesca questa mattina, se pensiamo in piccolo nella questione dei migranti, questa questione si trasformerà in un grande pericolo per tutta l'Europa. E adesso il servizio. Il numero dei profughi è passato in poche settimane da 3 a 6 mila e le condizioni sono sempre disperate nelle bidonville, in quella che tutti chiamano la giungla di Calais. Siamo al confine tra Francia e Regno Unito, un fronte caldo dell'immigrazione del quale spesso ci si dimentica in Europa. E proprio ieri il ministro francese dell'interno Cazeneuve e il suo omologo britannico Theresa May hanno firmato un accordo per il rafforzamento della cooperazione di polizia e per lo smantellamento delle organizzazioni di trafficanti di esseri umani. In poche parole, più agenti a presidiare l'accesso al tunnel sotto la Manica, più cooperazione tra i servizi segreti nel campo giudiziario, interventi anche sul fronte umanitario. A breve arriveranno 400 posti in tende riscaldate e container per ospitare 1500 persone. Qualche passo in avanti dunque, più timidi invece i passi su un altro fronte caldo, la rotta balcanica, dove per ora sono disponibili solo 12.000 dei 50.000 posti di accoglienza, mentre Vienna, per contrastare il flusso di migranti, introduce l'asilo a tempo. Dal 15 novembre verrà garantito solo per 3 anni e alla scadenza il permesso di restare in Austria decadrà automaticamente. Intanto si fa sempre più concreta la possibilità che la Commissione europea prenda in considerazione la crisi dei rifugiati nel momento di valutare il budget di alcuni dei suoi paesi. Lo ha affermato il presidente dell'Eurogruppo Dusseldorf dopo che già il presidente della Commissione europea Juncker aveva esortato il Parlamento UE affinché si applicasse la flessibilità a queste spese, una flessibilità da introdurre ovviamente a fronte di sforzi straordinari e paese per paese. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. L'UE sulla buona strada non può solamente raggiungere, ma addirittura superare l'obiettivo di riduzione del 20% delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020. È quanto emerge da un rapporto dell'Agenzia Europea per l'Ambiente presentato a Bruxelles in vista della conferenza sul clima dell'ONU in programma a Parigi. Conferenza sul clima che apre i battenti l'ultimo giorno di novembre, di fatto si allungherà sulla tutta la prima settimana e i primi giorni di dicembre, e che vi ricordo Radio 24 seguirà con i suoi inviati corrispondenti, insomma seguiremo questo grosso evento. Infine parliamo di fondi europei. L'Italia deve fare tutto il possibile per non buttare al vento quasi 6 miliardi di fondi europei, lo dice la CNA. Dunque gli artigiani sono preoccupati e sottolineano che alla fine, dicono, siamo certi che l'impegno corale delle istituzioni riuscirà a trovare la strada per non dover restituire a Bruxelles queste risorse. Insomma, un tema classico che vede ormai delle scadenze imminenti con la fine dell'anno e che va affrontato senza perdere tempo. Vi ricordo che parliamo di qualcosa che complessivamente ha un valore di 60 miliardi di euro, praticamente 3 manovre economiche. Con questo è tutto per l'Europa, noi ci risentiamo domani. Un saluto. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.